versione di Oscar. Di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, cari ascoltatori. Sono un po' sorridente perché non avevo sentito questa sigla natalizia vagamente cinesizzante. Almeno questo è l'effetto che fa a me. Spero che invece voi capiate e comprendiate che si tratta di entrare in questo spirito del Natale. Noi, naturalmente, le nostre trasmissioncine, nella mia. Tentiamo anche in questi giorni di andare dietro la cronaca e quindi vado subito al punto. Dopo avervi salutato, ringraziato per essere in ascolto, se ascoltate in podcast vi ricordo anche in questi giorni scrivete pure per proporre trasmissioni ospiti, versione di Oscar @radio24.it. Decidete invece se telefonare ora all'800 24 00 24. Il tema del giorno è il seguente. Dopo Chiamparino, il presidente della regione Piemonte e anche il presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti, oggi lanciano un tema su cui qualche volta noi siamo già intervenuti in trasmissione. Il tema è la riforma del titolo quinto, ha toccato, si fa per dire, le province, perché come si vede le province non le eleggiamo più, ma come abbiamo spiegato più volte sono rimasti gli 8,9 miliardi di euro di imposte di cui le province erano titolari quando c'erano, ci sono ancora, non sono più elettive, ma in più abbiamo pure 20.000 esuberi adesso, naturalmente tra capo e collo, che non illudiamoci, come è forse comprensibile e giusto, verranno sistemati a spese nostre. Detto questo però, Chiamparino, quindi alla testa della conferenza delle regioni italiane, e oggi anche il presidente della regione Lazio dicono: no, scusate, voi vi siete dimenticati del fatto che nel titolo quinto non riformate le regioni, e questo è il tema di oggi. Le regioni. Allora, i presidenti di grandi regioni stesse dicono: no, questa riforma va fatta, bisogna approfittare della riforma del titolo quinto invece di lasciarle tutte così come sono. Quindi nelle 20 regioni, poi in realtà come sapete le due province autonome del Trentino e dell'Alto Adige, Trento e Bolzano, è come se fossero una regione a testa ogni provincia, ma detto tutto questo i presidenti delle regioni dicono per primi: non perdiamo questo treno perché le regioni sono troppe. E come si vede, vista la concentrazione di spese che vi è addensata, non si può immaginare di riformare la Costituzione dimenticandosi che ci sono molte possibilità di risparmio accorpandole, non solo accorpando le regioni, cominciando dalle più piccole, l'Umbria, il Molise e così via. E avete letto in questi giorni, dopo l'uscita del presidente Chiamparino, delle cartine in cui sì, c'erano delle aggregazioni in centro Italia, nel sud Italia, ma anche, aggiunge Zingaretti stamattina su Repubblica, per chi non l'avesse letto, accorpando delle funzioni. Naturalmente, per esempio, immaginando di mettere insieme le centrali degli acquisti, compresa e forse cominciando dalla sanità, che come sapete è tra l'80 e l'85% del bilancio e delle spese di competenza delle regioni. A oggi, come sapete, gli acquisti sono tutti parcellizzati. E il sistema della sanità pubblica difende con una certa pervicacia l'idea che in ogni singola azienda sanitaria ospedaliera il procurement, come si dice in termini inglesi, cioè l'acquisto di fornitura di input intermedi, avvenga per ogni singola azienda, perché solo ogni singola azienda ospedaliera e sanitaria sarebbe consapevole bene di quello di cui ha bisogno. Resta il fatto che invece accentralizzando gli acquisti si diminuisce il costo marginale, medio e mediano, e probabilmente, viste le tante indagini in corso delle diverse procure, si introducono anche degli elementari criteri di trasparenza, non solo di efficienza, di accountability, cioè di responsabilità, eh? Cioè tentiamo di disboscare gli spazi in cui gli acquisti sono in area grigia e magari si facilitano più facilmente non va bene, ma insomma si facilitano gli amici degli amici, ecco, negli appalti e nelle forniture, e invece attraverso piattaforme digitali aperte al controllo di tutto c'è un controllo non solo sul meccanismo di prezzo e su come si forma, ma anche su coloro che poi le gare, gli appalti, le forniture le vincono. Allora, Mi pare interessante che questo tema venga rilanciato dai presidenti di regione stessi. Certo, dai presidenti delle grandi regioni, non delle piccole. Però, siccome ne parlammo mesi fa, e poi ne abbiamo parlato più volte, a lanciare il tema fu tra l'altro un sindaco che è vicepresidente del PD ed è il sindaco di Pesaro, mi è sembrato giusto nel chiedere a voi se ci credete, quindi telefonateci per dire se la speranza ce l'avete, e poi diteci perché, alla luce dell'esperienza, di ciò che pensate della regione in cui vivete, di come spende i soldi, mi è sembrato però giusto far tornare il sindaco che prima ai nostri microfoni disse: guardate che non è affatto detto che non ci riusciamo a mettere la riforma delle regioni nel titolo quinto, appunto vicepresidente del PD, sindaco di Pesaro, Matteo Ricci. Buon pomeriggio e grazie di essere con noi. Buon pomeriggio a tutti. Allora, queste uscite di Chiamparino e di Zingaretti, lei all'interno del PD, perché poi non è così secondario che poi siano del PD entrambi, e diciamo anche di religioni interne diverse, di confessioni interne diverse, lo so che lei adesso mi dirà non esistono le confessioni interne, però insomma esistono anche le correnti, le opinioni diverse, però il fatto che presidenti di così grandi regioni se ne escano con paginate intere sui giornali come oggi fa Zingaretti con Federico Fubini, è una sensibilità personale loro. Ipotesi A, e io in quel caso l'apprezzo comunque. B, è un passo avanti nel senso che nel PD quello di cui lei ci parlava mesi fa e sembrava un rottamatore, però un po' idealista, ha fatto dei passi avanti in concreto, quindi davvero bisogna aspettarsi che il PD prenda un'iniziativa. C, andando ancora oltre nel nostro esercizio di domanda a lei, possiamo immaginare in concreto che nelle letture successive in Parlamento del titolo quinto ci sia uno schema condiviso, e secondo lei di che tipo, per l'accorpamento sia delle regioni che delle funzioni? Ecco, a lei il microfono. Ma intanto la cosa mi fa molto piacere, perché la dimostrazione è che avevamo ipotizzato un processo politico che a mio parere andrà avanti. È un processo che nasce intanto da una ridefinizione economica delle aree territoriali. Noi siamo nella globalizzazione, siamo in Europa. Quando le regioni sono state pensate e realizzate non c'era né l'Europa né la globalizzazione. E pensare che le regioni esistenti siano gli ambiti ottimali per competere in Europa e nel mondo è folle. Lo sappiamo benissimo, soprattutto per ciò che riguarda le regioni piccole. E quindi prima del risparmio c'è l'appropriatezza della dimensione regionale oggi, nel mondo che cambia. Io su questo devo dire che non solo sono d'accordo, ma la concorrenza a livello mondiale non va avanti neanche per sistemi paesi, perché va avanti attraverso aree territoriali omogenee di specializzazione economica insediate intorno a grandi addensamenti metropolitani che si proiettano nel mondo. Quello che ha appena detto Matteo Ricci, sono totalmente d'accordo, fa giustizia delle idea, pensate, quante volte abbiamo dovuto parlare del fatto che la Basilicata, il Molise, la provincia di Trento, la provincia di Bolzano si facevano all'estero campagne e uffici di rappresentanza per il turismo, ciascuno separate dagli altri. Questa è la realtà creata dal vecchio titolo quinto, quello che passò, diciamo, con pochi voti di maggioranza. Questa cosa è molto vera economicamente. Detto questo, secondo lei i presidenti delle piccole regioni saranno mai d'accordo? Se la sente di disegnare un percorso ideale che potrebbe attenderci nei prossimi mesi per passare da queste proposte di dibattito però a delle iniziative concrete? Ma io sono sindaco di una città marchigiana ed il fatto che me lo sono posto tra i primissimi è la dimostrazione che proprio le piccole regioni devono porsi il problema. Anche perché il cambiamento o lo governi o lo subisci, il rischio di subirlo riguarda proprio le piccole regioni, quindi soprattutto le Marche, soprattutto l'Umbria, soprattutto le altre piccole regioni si devono porre il problema e avere un disegno strategico. Io credo che da gennaio si faranno dei passi avanti, ne ho parlato anche personalmente con il Presidente del Consiglio qualche settimana fa, non mi pare che avesse ancora intenzione di cavalcare fino in fondo questo tema per evitare di mettere forse troppa carne al fuoco nel processo delle riforme. Però la fine delle province nei fatti, con la transizione così delicata e complicata che si sta attuando, l'esigenza di accorpare i comuni apre il fronte delle regioni, e quindi il tema è prettamente politico e di riforma istituzionale del paese. E l'altra novità è che sono state depositate delle proposte di legge, la più importante mi pare quella depositata da Morassut e Parrini, che sono due parlamentari autorevoli del PD, e quindi sicuramente da gennaio questo tema dovrà aprirsi e essere discusso. E il fatto che non solo Zingaretti e Chiamparino, ma ad esempio un neoeletto come Bonaccini, nella una delle prime uscite che ha fatto, ha appunto rilanciato il tema dell'accorpamento delle regioni, significa che nel Partito Democratico almeno il dibattito è molto maturo, quindi spero che ci sia la possibilità anche in sede politica prima che istituzionale per affrontare questo tema e vedere se agganciarlo alla riforma del titolo quinto e quindi al processo di riforme già avviato. Posso farle un'altra domanda? Uno dei temi sui quali anche il Presidente del Consiglio ha detto: guardate, il titolo quinto già è complicato farlo andare avanti nei tempi giusti, non mettetemi anche le pareti di sesto grado, per così dire, in termini alpinistici, perché sennò la partita mi si complica troppo. E questo lo disse a proposito del fatto che c'era chi obiettava, io tra quelli anche, del fatto che bisognava mettere mano a un istituto che mi sembra storicamente oramai superato. Quando entrò in Costituzione aveva delle ragioni oggettive, storiche, di minoranze etnico-linguistiche da tutelare, di aree vicine ai confini dopo una guerra che era stata tragicamente inficiata dai nazionalismi contrapposti. Sto parlando delle autonomie speciali delle nostre regioni, che sono diversamente declinate nei risultati concreti. Noi abbiamo insieme da una parte a nord-ovest e a nord-est, Valle d'Aosta e Trentino Alto Adige, medie di spesa pubblica pro capite elevatissime, che derivano dal fatto che lì si lascia una percentuale di entrate proprie rispetto alle altre regioni nelle mani di chi amministra molto più elevata che alle altre regioni, e dall'altra abbiamo il caso della Sicilia, è eclatante, che spende per i suoi dipendenti con quasi 600 milioni di euro l'anno più di tutte le altre regioni italiane sommate da sola, per via dello scudo della sua autonomia speciale. Ecco, in quel caso l'autonomia speciale viene declinata in una maniera che è diventata lo scudo per delle voragini che non si possono toccare, ed è pazzesco rispetto alla condizione delle altre regioni. Secondo lei, mettendo mano a un disegno complessivo di ridefinizione di alcuni compiti e di quindi anche poi del numero e di accorpamento di funzioni delle regioni, sarebbe storicamente possibile e politicamente, le forze politiche sono pronte anche a immaginare di rimettere mano alle autonomie speciali, che oggi a molti appaiono come una cosa ingiustificabile, oppure no, secondo lei è meglio storicamente lasciar perdere, perché sennò poi ci si imbatte nei rigurgiti dell'autonomismo siciliano, sardo e così via? Lascerei perdere, è evidente che anche quello è un fattore ormai antistorico, che non ha più ragione di esistere. Poi mi rendo conto che la questione è molto delicata e quindi comprendo anche, come dire, alcuni timori di chi sta portando avanti con fatica ma grande determinazione il percorso di riforma in Parlamento. Io credo che nel 2015 ci sono due elementi che obbligatoriamente ci costringeranno a ragionare delle regioni. Il primo è la riforma, lo svuotamento delle province, che deve immaginare regioni differenti. L'altro è la riorganizzazione dei comuni, perché noi nel 2015 discuteremo di local tax, che cosa deve essere la local tax, quale autonomia dare ai comuni, che dimensione devono avere i comuni, si dovrà fare una legge sulle unioni dei comuni e le fusioni dei comuni molto più spinta rispetto a quella che c'è oggi, e quindi di conseguenza il ragionare sulle regioni sarà naturale e conseguente, perché non possiamo fare un ragionamento sui comuni e lo svuotamento delle province e non farlo sulle regioni. Alla luce anche di ciò che è successo, abbiamo visto che spesso e volentieri sono centri di spesa incontrollati, sono centri che hanno bisogno di una grande riforma, e non capisco perché, lo dico sempre per la mia regione, perché altrimenti si parla sempre delle altre, perché una regione di 1,5 milioni di abitanti e una regione come l'Umbria di 900.000 devono avere due consigli regionali, due strutture burocratiche, due strutture dirigenziali, pianificazioni diverse, sanità diverse, leggi diverse ambientali. Qual è il motivo? Qual è la giustificazione fattiva e anche storica? In più, la identità italiana è molto municipale, sono poche le regioni che hanno una loro identità regionale, la Sardegna appunto, la Sicilia, forse il Veneto, forse la Toscana, ma le altre regioni non sono regioni dove i cittadini si sentono innanzitutto appartenenti a quella regione, si sentono innanzitutto appartenenti alla propria città, e quindi anche il tema identitario è facilmente superabile se si spiega ai cittadini che questa riforma può fare risparmiare, ma soprattutto può far contare e dare maggiore competitività a quei territori. Allora, 60 secondi di informazione stradale, poi torniamo con il sindaco di Pesaro a parlare di accorpamenti delle regioni, crederci non crederci, ma sarebbe giusto, altro che se sarebbe giusto. la versione di Oscar. Eccoci, tornate in diretta alle 16.48 e 36. Aggiungo due temi a quello, due motivi a quelli che abbiamo già elencato per sperare che questo accorpamento e ridefinizione delle regioni, anche nel titolo quinto, prendendo il tram che intanto si è avviato e che per il momento trascura il tema della riforma delle regioni e della diminuzione del loro numero, lanciato da Chiamparino, a Zingaretti, alcuni presidenti di regioni del PD, abbiamo con noi uno di coloro che nel PD per primo ha lanciato il tema, cioè il sindaco di Pesaro Matteo Ricci, e aggiungo due altre ragioni per farlo, secondo me. La prima è che oltretutto 2015, dal 1° di gennaio, partono le 10 grandi città metropolitane oltre a Roma Capitale nel nostro ordinamento. Io non riesco a capire, infatti per esempio il sindaco di Milano, Pisapia, dice sì, noi abbiamo fatto lo statuto, le elezioni, sapete che i consiglieri di città metropolitane vengono eletti dai consiglieri comunali, dai sindaci delle centinaia di comuni, nel caso di Milano sono 180, che la ex provincia di Milano che esprime la città metropolitana, però dice Pisapia, e dicono in realtà i sindaci delle città metropolitane, noi in termini di risorse, in termini di poteri, ci si chiede di fare cose che non possiamo fare, continueremo a dipendere dalle regioni. Se abbiamo introdotto le città metropolitane, allora a quel punto bisogna ridefinirle le risorse, le competenze delle regioni, se no fanno a pugni queste due cose. Prima ragione. Seconda ragione, guardate che accorpare non significa accentrare le competenze e standardizzare. Secondo me più accorpiamo con una logica è anche quella appunto delle identità storiche diverse di cui appunto faceva cenno il sindaco di Pesaro adesso, tanto più possiamo chiedere e forse ottenere un autonomismo più accentuato. Io non ho il problema di superare la vecchia autonomia speciale delle attuali 5 regioni per omologare. Il mio problema è che non riesco a capire perché quello debba restare in piedi, tutto il resto venga omologato. Cioè, perché per esempio nella scuola e nell'università, non solo nella sanità, non è ipotizzabile pensare che nell'affiancamento scuola-imprese non si debbano meglio ottenere questi obiettivi attraverso una larga autonomia dei percorsi rispetto a quelli nazionali. Purtroppo l'esperienza deludente degli istituti tecnici italiani, degli ITIS, rispetto all'istruzione tecnica tedesca, ci dice che noi abbiamo bisogno di più autonomia territoriale da quel punto di vista, non di accentramento. Quindi chi mi manda gli sms dicendo siete degli accentratori, secondo me non ha capito bene. Se ridefiniamo e semplifichiamo il numero, le competenze delle regioni, possiamo anche chiedere più articolo 116 per tutto, per restare a chi si ricorda la Costituzione attuale. Mentre oggi abbiamo l'autonomia speciale per alcuni, pochi, e per altri non ce l'abbiamo per niente, e questo è sbagliato secondo me. Allora sentiamo un po' di telefonate e poi sentiamo il commento del nostro sindaco di Pesaro. Cominciamo con Gianluca da Napoli. Prego Gianluca. Sì, salve, buonasera. Buonasera. Giorgino, le faccio i miei complimenti. Sì, figuri, non le merito. Non le merito, grazie, vada al punto. Allora, le volevo dire, non vorrei che diventi anche questo un altro slogan e poi in realtà quando si vanno a fare i decreti attuativi rimaniamo delusi. Appunto, io sono stanco di sentire slogan e chiacchiere inutili. Allora, se noi facciamo sì che le regioni vengono accorpate, in linea teorica è giusto, ma poi bisogna entrare nel merito. Sì. E il problema è il merito. In che senso? Nel momento in cui si attuano dei contratti di fornitura e sentiamo sempre le solite questioni della siringa, ad esempio in ambito io sono stufo di sentire sempre le solite sciocchezze. Allora, una siringa a Bolzano costa, faccio per dire, 20 centesimi, a Napoli costa 1,20 euro, vale l'appalto di Bolzano. Perché questo è vero che ci deve essere, perché alla fine la concorrenza anche tra le regioni nei criteri di efficientamento deve essere un requisito necessario e non si può precludere da questo. Quindi lei dice o mi danno la certezza di come spendono meglio e in trasparenza oppure possiamo accorpare, ma poi... E poi un'altra cosa, c'è stato tutto lo scandalo di Roma Capitale, sì, esatto. Va bene? Ok, perfetto. Allora, noi sappiamo, abbiamo visto, l'esperienza dovrebbe, tra virgolette, un piccolo insegnamento ce lo dovrebbe dare, no? Allora, mettiamo online il bilancio delle regioni. La regione con chi si interfaccia, con quali enti, quanto spende, perché? I cittadini, l'informazione ci rende liberi e il cittadino deve essere informato. È quello che proviamo a fare, ecco, Gianluca, non è così semplice, perché lei deve ricordare che solo dal 2015 noi entriamo in una fase di omologazione dei criteri contabili dei bilanci locali. I bilanci locali fino al 2015 non erano tra loro comparabili, cioè era possibile redigerli con criteri contabili e patrimoniali diversi nel nostro paese. Quando dico diversi significa pure comune per comune. So che è ridicolo, però funzionava così l'Italia pubblica. Devo dire, da 2 anni è iniziata la riforma per la standardizzazione, che inizia proprio da questo 2015, c'è una norma della legge di stabilità anche per questo. Sentiamo Giuseppe da Roma. Giuseppe, prego. Buonasera a tutti. Sì. Io ho l'impressione che ci siano degli errori di fondo che poi non vengono ricordati, nel senso, le voglio ricordare che per esempio per quanto riguarda gli appalti pubblici, la legge 163 prevede che sotto soglia si possono fare le cosiddette licitazioni private. Sì. Che cos'è in effetti una licitazione privata? Significa chiamare 5 ditte, cioè, per fare l'affidamento poi di una gara. Allora, molto spesso succede, ma non solo al Comune di Roma, glielo posso dire con certezza, ma anche in altri comuni, che si chiama un imprenditore a cui si vuole affidare l'appalto e si dice: porta i prezzi di altri 4, li metti in busta chiusa, li chiamo il tuo, così tu vinci la gara. Allora, voglio dire, se dobbiamo ragionare con la logica del risparmio, la legge nazionale ci consente queste cose, ma questo vale in tutti i campi, poi lei è un imprenditore, questa cosa probabilmente non è, ma sicuramente la sa. Voglio dire, di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando delle regioni? In regione funziona tutto così, con la legge nazionale, come funziona il Comune di Roma. Vogliamo parlare dei grandi appalti, quelli dove ci sono i soldoni? Se le 10 ditte di costruzione nazionale si mettono d'accordo per avere ognuno un tronco di autostrada di costruzione, l'accordo è fatto. Caro Giannino, è inutile che ci illudiamo, lei ha perfettamente ragione quando parla di visione, abolizione dell'articolo 5 della Costituzione, le regioni, statuto speciale, abolizione dei privilegi. Poi alla base esistono queste cose, per cui la mia impressione, allora, il discorso di Roma Capitale è un discorso in cui c'è la mafia, è stato accertato, ci sono i delinquenti. Accertato, il processo non c'è ancora, però può dire, e concludo. Le posso dire che in Calabria un comune è stato commissariato per infiltrazioni mafiose perché ha affidato 2 appalti consecutivi a distanza di 6 mesi per 10.000 euro alla stessa ditta. Veramente una cosa. E non solo uno, ho capito. Allora, Giuseppe ci dice: esistono per il controllo della spesa anche principi generali nel nostro ordinamento, che in realtà bisogna ricontrollare e soprattutto controllare come poi vengono applicati. E anche qui ci siamo. Però, intanto, se diminuiamo il numero e ci rimettiamo d'accordo su quello che possono fare, magari maggiore autonomia, diciamo, rendiamo più agevole fare non 22 controlli ma farne 10-12, ecco, come devo dire, su ordinamenti regionali meno numerosi. Ruggero da Venezia, come la pensa, Ruggero? Sì, allora io volevo intervenire piuttosto su un aspetto che tutti i comuni, parlo di Venezia per esempio, continuano a creare nuove società con nuovi consigli di amministrazione, che al limite uno si chiede: ma è possibile che per l'utilizzo dell'azienda che si occupa dei rifiuti oppure del riciclaggio c'è bisogno di 3 o 4 o 5 società che fanno la stessa funzione? Ruggero, lei lo sa che il mio ero fan di Cottarelli, aprile dell'anno scorso, erano pronte 52 misure sulle partecipate locali, scritte, nel senso che abbiamo visto tutte le slide. Il Presidente del Consiglio dopo Roma ci ha detto 2 settimane fa che adesso metterà mano all'intervento sulle partecipate controllate locali, comuni e regioni, e entro marzo. Il relatore alla legge di stabilità venerdì sera ha detto che entro marzo dovrebbe arrivare. Vedremo, Ruggero, ma mi interessa chiedere al sindaco di Pesaro una considerazione finale su quello che ha sentito fino a questo momento. Io sono d'accordo con lei, con le cose che dicevo prima, cioè le regioni intanto bisogna capire che cosa devono fare. Le regioni sono nate per fare le leggi e la pianificazione, non per gestire. Bravo. Gli ambiti gestionali, per questo le dico, si incrociano molto con la riforma dei comuni. Gli ambiti gestionali devono rimanere in capo ai comuni. Esatto. Magari in unioni dei comuni o in comuni più grandi o a maggior ragione nelle città e a quel punto grandi. Bisogna, come nella Costituzione tedesca, dare ai comuni risorse proprie in Costituzione scritta, che non toccano i governi ogni anno come facciamo ogni anno. Questo sarebbe il mio sogno ideale. Grazie a Matteo Ricci, grazie a tutti voi, continuate con Radio 24, appuntamento con me a domani.